soldatino che singhiozza per un merendino. Ma io piango perché voglio un caimano. Un cai che? Un caimano col cambio Shimano. Oh, cos'è? C'è chi piange per un polloncino. C'è chi strilla per un formaggino. Ma io piango e singhiozzo tutte l'ore. E cosa vuoi? Ma i bambini di oggi quanti anni hanno? Oh! Bambini, piangete che mamma ve lo compra. Se non ci riuscite, bruciate la cipolla. Bambini, piangete che mamma ve lo compra. Il video, lo stereo, perfino la raccolta. Bambini, piangete che mamma ve lo compra. Un lupo, la torre di Londra. C'è chi strilla che vuole una frittella. Ma io piango e sono anche arrabbiato. E cosa vuoi? Un gelato computerizzato. Oh, cos'è? C'è chi piange per una aragosta. Chi singhiozza sempre senza sosta. Ma io piango perché voglio digitare. Dici che? I bambini di oggi quanti anni hanno? Oh!